chi è che va? Pass the mic, come si dice dalle nostre parti. Vai. Sandro, così bello qua. Sì, grazie, grazie anche dell'invito. Che poi, dicevo Paolo, ma io sono anche lontano da un'azienda di Abbiate Grasso, ne conosco tante, ma tante non ne conoscono. Però una cosa soltanto vorrei sottolineare, che la salvezza dell'umanità e naturalmente del pianeta Terra è fondamentalmente nella voglia di fare qualcosa che serve all'umanità, che serve all'uomo, che serve all'etica del lavoro, che serve alla sicurezza alimentare, che serve alla sicurezza dell'ambiente. È questo che occorre pensare, qualunque cosa che occorre fare, che si vuole fare, bisogna pensare a queste piccole considerazioni, ma molto importanti. La mia esperienza è partita molto tempo fa, quando 30 anni fa, insomma, si cominciava a discutere se effettivamente l'impronta dello sviluppo dell'agricoltura era veramente sostenibile o meno. 30 anni fa si cominciava già a valutare queste cose, che insomma non, la massimizzazione del reddito, del profitto, occorre rendere di più come produzione, perché altrimenti i margini economici vengono sempre di più a essere ridotti, non sta in piedi, insomma. Abbiamo visto, ma non è soltanto nel settore agricolo, perché lo vediamo anche nel settore industriale, no? Le aziende, fino a quando riescono a stare in piedi, poi nel discorso dell'attività agricola c'è un legame del territorio, delle tradizioni di più che gli altri settori, però gli altri settori, finché riescono a guadagnare un buono, stanno sul territorio, altrimenti chiudono, prendono e se ne vanno, no? Adesso lo vediamo con tantissime aziende che ci sono sul nostro territorio. Per cui la mia esperienza è dire, vabbè, così l'agricoltura convenzionale intensiva non aveva più senso andare avanti. E abbiamo cominciato a valutare, discuterne anche lì con altri agricoltori vicino a me. Però effettivamente è molto difficile, come anche diceva Giuseppe nel filmato, cioè 8 aziende agricole su quante? Centinaia di aziende soltanto della provincia. Allora, comunque abbiamo fatto lo stesso il passo. A quell'epoca, vabbè, l'agricoltura biologica era ancora concepita un attimino un po' lontana, per cui si parlava anche di prezzi molto più elevati, no? E allora abbiamo fatto una scelta di agricoltura integrata, con un occhio di riguardo sull'ambiente, per cui in collaborazione proprio con l'ente parco, che noi ce l'abbiamo qua, per cui non dobbiamo vederlo come un qualcosa di lontano che dà soltanto magari delle limitazioni di fare delle cose, oppure magari si dà la colpa al parco su certe limitazioni che magari invece non c'entra niente il parco. Abbiamo cominciato a concepire e parlare di ecosostenibilità delle lavorazioni agricole. Insieme ad altri agricoltori siamo entrati in una logica del marchio del parco. Su questo punto abbiamo incentrato tutta la nostra attività, per cui sicuramente la rotazione delle coltivazioni, le alberature che magari danno fastidio ma però danno beneficio, l'allevamento anche loro sempre meno intensivo per i nostri suini, rintrodurre alcune varietà antiche. Nel nostro caso non abbiamo toccato il frumento, che invece negli ultimi anni abbiamo ripreso anche quello per il pane, ma a quell'epoca abbiamo voluto con l'agricoltore lì vicino ricoltivare il mais antico di tipo scagliolo. Però c'era il problema della redditività comunque dell'azienda, per cui dobbiamo fare un altro passo ulteriore, che era la trasformazione diretta. E non vi dico la difficoltà, non vi dico la problematica del rapporto tra il lavoro e il guadagno che generava questa scelta. Problematiche anche familiari, alla fine della fiera, con meno tempo vuol dire avere altre situazioni familiari. Però questo comunque ha dato soddisfazioni. Naturalmente occorre mettere in conto altri tipi di professionalità che bisogna far sviluppare noi stessi all'interno dell'azienda. Però comunque dà soddisfazioni. Certo, si va contro la grande industria di trasformazione. E questo è il punto principale. Dove siamo noi in un contesto economico di consumo rispetto alla grande distribuzione? Allora qui entra ancora di più la logica dell'interesse da parte delle amministrazioni ed enti pubbliche, per cui comuni, province, regioni, le stesse enti che magari per conto delle amministrazioni pubbliche gestiscono le mense o gli ospedali, il discorso di introdurre alimenti a filiera corta, a basso impatto ambientale naturalmente, dell'ecosostenibilità deve essere un cavallo di battaglia. Questo è un ruolo che devono giocare le amministrazioni. È qua che nasce anche il fatto di stimolare sempre di più che se piano piano si è perso da parte del cittadino, del consumatore, che effettivamente il ruolo dell'agricoltura non è soltanto quello di mero produttrice di un alimento che l'industria trasforma. Perché questo? Perché è riduttivo? Perché l'industria vuole un prodotto facilmente trasformabile, un prodotto che è facilmente conservabile, per cui il prodotto alimentare di per sé moderno, tra virgolette, da solo non può stare, occorrono da tanti altri additivi tecnologici e chimici che bisogna mettere in questo prodotto qua. Per cui ritorna ancora la logica che il cittadino deve essere una parte integrante nel tessuto culturale dell'agricoltura. Se il cittadino riconosce il ruolo agroambientale, la sicurezza alimentare, delle tradizioni anche, questa è una forza che il territorio ne vantaggia e le amministrazioni possono fare molto per questo. Io mi fermo qui. Grazie.